in primo piano. 7:32 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme i quotidiani, soprattutto le prime pagine, le aperture e qualche approfondimento dai quotidiani di oggi, sui quali ovviamente la parte che riguarda l'aereo ucraino abbattuto, a questo punto sappiamo per certo, in Iran non è affrontata perché è cosa delle ultime ore, quindi troveremo titoli su questo argomento diciamo datati rispetto a quello che già i nostri giornali radio vi hanno raccontato. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che sceglie un'apertura dedicata alle borse mondiali, scampato pericolo, spread giù a 150 punti. La strategia della tensione di Donald Trump non ha spaventato gli investitori, dice il Sole 24 Ore, bilancio settimanale positivo per il FTSE MIB in rialzo dell'1,35%, vendite dei Bund in contemporanea, acquisti di BTP. Questo il titolo, poi dopo gli articoli sono ovviamente esplicativi di questo piccolo riassunto che io vi ho letto. Fotonotizia sulla sfilate Fashion Week a Milano e Firenze, perché a Firenze anche c'è l'ultima giornata del Pitti di Firenze, Milano hub della moda uomo, articoli a firme tra l'altro di Giulia Crivelli, ovviamente, che è l'esperta per il Sole 24 Ore del tema, e Flaccavento. Foggia dice basta a mafia e racket, Don Ciotti miccia da disinnescare, l'approfondimento di Domenico Palmiotti sulla manifestazione di ieri a Foggia, oltre 8.000 persone, 300 associazioni, un corteo che ha attraversato la città di Foggia contro la mafia e il racket che dilagano, organizzata da Libera. Siamo qui per disinnescare la miccia di paura e rassegnazione, siamo qui affinché ci sia un passaggio, un cambiamento, ha detto il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. C'è poi l'intervista a Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano, intervista di Gianni Trovati, vi leggo il titolo e poi cerchiamo di vedere appunto alcuni passaggi di questa intervista. Cottarelli dice: per ripartire va ridotta di 2 punti la pressione del fisco. Andiamo al Corriere della Sera, centropagina, titolone di apertura, mossa USA, sanzioni all'Iran, Washington ha approvato nuove misure, colpiti acciaio e tessile, la UE rilancia intesa sul nucleare. I possibili effetti per le aziende italiane, Libia, oggi Conte vede Sarraj a Roma, quindi intanto l'incontro con Sarraj si farà dopo quello che è stato così mancato nei giorni scorsi, e poi appunto l'approfondimento sugli effetti per le aziende italiane, effetti che poi dopo si evidenzia sul Corriere della Sera, insomma sono già molto sensibili per le sanzioni che sono state inflitte dagli Stati Uniti all'Iran dopo che Trump ha stracciato, no, l'accordo sul nucleare, ha deciso di uscire da quell'accordo sul nucleare, e già lì insomma tutto è cambiato. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Di Maio sotto attacco, sfida i ribelli del Movimento 5 Stelle, taglio dei parlamentari sia al referendum. C'è la resa dei conti nei 5 Stelle, scrive il Corriere della Sera, ha raggiunto il quorum per la consultazione, la Lega è stata decisiva. Così riassume un po' la situazione il Corriere della Sera, che poi dedica spazio anche ancora ai cambiamenti climatici e il destino della Terra, a partire dai roghi che devastano ancora l'Australia, e che dice Walter Veltroni, che è l'autore di questo articolo, ci riguardano da vicino questi roghi. Brucia l'Australia, è lontana, chi se ne importa, il mondo globalizzato immagina sia inutile occuparsi di quelle case distrutte e di quei morti, ma nelle nubi di fuoco dell'Australia c'è il destino di tutti noi, e questo è l'incipit. Andiamo a Repubblica, a tutto campo il titolo: PD cambio tutto, l'idea del segretario dopo il voto in Emilia, l'idea di Zingaretti dopo il voto in Emilia, subito un congresso per rifondare la sinistra, partito nuovo aperto alle sardine, movimento dei sindaci, ambientalisti, il tema della modifica poi del nome. Questo è il piano di Zingaretti che poi viene sviluppato da Massimo Giannini. Si ricorda poi la questione 5 Stelle, Di Maio dice non lascio e propone un leader donna al suo fianco. Al centro pagina Michele Serra ci ricorda la vicenda di Laurent dalla scuola al volo disperato verso l'Occidente. Il ragazzino, un 14enne, migrante che voleva migrare della Costa d'Avorio, morto nel carrello di un aereo che sarebbe andato a Parigi. Scrive Michele Serra, ha un nome, una storia, il ragazzino ivoriano trovato morto assiderato o asfissiato nel vano del carrello di un aereo diretto in Francia. Andava a scuola, aveva una famiglia, una casa. Il suo gesto contiene in una volta sola e per una sola e definitiva occasione la pazzia magnifica e disperata degli adolescenti di tutti i continenti, di tutte le epoche. Si è afferrato con destrezza al carrello, una sfida ginnica come stare in piedi, sui treni in corsa, i teenager lo fanno, e la smania irrefrenabile dei migranti. Andare via, andare dove si sogna una vita migliore e farlo a qualunque costo, anche a costo della vita. Così Michele Serra su questa vicenda. In prima pagina su Repubblica si ricorda anche l'allarme TG Rai, gli ascolti vanno in rosso. Giovanna Vitale ci fa sapere, ci scrive, anno 2019, la grande fuga dai TG Rai, se fosse un film sarebbe questo il titolo in grado di raccontare la stagione più nera dell'informazione pubblica, con picchi negativi d'ascolto che superano addirittura il 10%. Così appunto sui TG, e in prima pagina Carlo Bonini ci ricorda anche della manifestazione di Foggia, di cui abbiamo detto poco fa dalle pagine del Sole, quel popolo che a Foggia sfida la mafia, no alla paura. E i ragazzi con l'Asperger, sempre sulla prima di Repubblica, dicono grazie a Greta, dobbiamo ringraziare Greta Thunberg perché oggi quella strana parola Asperger è entrata nel lessico collettivo. Per chi ha la sindrome è stato come uscire dall'isolamento. Davide Moscone, psicologo, psicoterapeuta, racconta così l'effetto Greta e ne parla Repubblica in un articolo di Maria Novella De Luca. Sulla Stampa l'apertura è dedicata ai 5 Stelle, Di Maio ai ribelli dice se volete sfiduciatemi, successione corsa a 3, il capo politico messo in discussione ammette tutto è migliorabile, Di Battista idolo delle piazze, Patuanelli istituzionale, la taverna e l'anti Meloni, questi sono i tre che vengono indicati dalla Stampa. Al centro pagina si parla di Libia, l'opzione di una missione militare sul tavolo dell'Europa, la fotografia ritrae combattenti fedeli al premier al-Sarraj che si scontrano con le milizie del generale Haftar alla periferia di Tripoli. La Stampa troviamo tra l'altro anche una intervista a Lev Dengov che è il capo del gruppo di contatto russo per la Libia, una lunga intervista di Francesco Semprini nella quale tra l'altro Dengov dice che rispetto al tentativo di mediazione italiana, dice rispetto il governo italiano e il lavoro che il paese ha fatto negli anni per la Libia, oggi però la situazione non permette di giocare individualmente. Occorre un coordinamento con Turchia e Russia, altri paesi europei ce lo stanno chiedendo. Le relazioni tra i nostri governi sono molto buone, è un'opportunità unica per creare una coalizione assieme. Il limite dell'Italia è stato il mancato coordinamento con gli attori chiave. Bisogna scegliere i soci giusti, dice Dengov, per dare vita alla squadra vincente. E mi auguro che ora l'Italia faccia del suo meglio. Quindi un colpo al cerchio, una alla botte, insomma una piccola lode ma una grande critica. Il Messaggero apre sulle manovre per il voto anticipato, taglio dei parlamentari, la Lega salva il referendum, urne più vicine e Conte dice verifica subito. Nei 5 Stelle battaglia sul dopo Di Maio, l'ipotesi del passo indietro a marzo, ma il leader dice io tradito. Al centro pagina sanzioni USA all'Iran, rischi per l'Italia, nuovo giro di vite negli Stati Uniti contro l'Iran, questa volta la morsa è da strangolamento, Trump ha deciso nuove sanzioni, aereo abbattuto per sbaglio, anche l'Iran valuta l'errore umano e poi, come sappiamo, lo ha addirittura ammesso nelle ultime ore. Per quello che riguarda la città di Roma, prove di scissione in Campidoglio, 5 grillini guardano a Fioramonti, fronda alla Raggi. Andiamo sul quotidiano nazionale, a centro pagina la fotografia della regina Elisabetta II, Dio salvi Meghan ed Harry, come sapete sono in fuga da Buckingham Palace, la duchessa in Canada, il marito a Londra affronta una regina furibonda, sostiene il quotidiano nazionale, ma il titolo a tutta pagina è dedicato ai poliziotti al verde e clandestini liberi. A Livorno gli agenti avrebbero dovuto anticipare i soldi per il rimpatrio, il sindacato dice stufi di pagare di tasca nostra e in questo caso appunto a Livorno non lo hanno fatto. Io apprendo da questo articolo appunto che ci sia un po' questa prassi che gli agenti anticipino dei soldi per appunto in questo caso il rimpatrio di clandestini fermati. L'uomo fermato doveva essere portato al CIE di Trapani e poi espulso. Gli agenti chiamati a sostenere le spese di tasca propria stavolta hanno detto no. Sul giornale, alla larga dall'Italia, questo è il titolo portante, l'industria si ferma, allarme di Bloomberg, paese a rischio, non investite. Di Maio è stato licenziato dai 5 Stelle ma fa finta di nulla, quindi unisce questi due temi il giornale nella sua apertura. Al centro pagina però c'è il riconoscimento eccezionale, questo è il titolo, a Maurizio Serra, primo storico italiano entrato all'Accademia di Francia. Diplomatico di lungo corso è stato cooptato tra i membri della Accademia, l'istituzione culturale più importante d'Oltralpe, e a questo appunto dedica la fotonotizia il giornale. Su Libero invece si cambia decisamente argomento, l'ospizio degli orrori, anziani invalidi imbavagliati e picchiati, ogni 3 giorni mettono i sigilli a una casa di riposo, ieri è toccato agli Anni Azzurri di Palermo dove il personale irregolare prendeva di mira i pazienti colpevoli di essere vecchi ed indifesi. E così appunto apre Libero. Prima di dare spazio alla viabilità vi leggo anche l'apertura di Avvenire, poi proseguiamo. Salvare in Libia, primi caduti turchi negli scontri, 200 migranti salvati in mare, SOS dalle prigioni. L'appello ONU per i rifugiati torturati mentre si combatte tra le fazioni. L'Italia, presto la conferenza a Berlino, l'Europa dice embargo sulle armi. Così l'apertura di Avvenire, che ricorda anche qui la manifestazione di Foggia va in piazza contro clan e paura, questa è dedicata alla fotonotizia, dopo gli attentati 20.000 sfilano con Libera. Per quel che riguarda la politica, meno deputati, si voterà Movimento 5 Stelle, Di Maio resiste, trovate grazie alla Lega le firme per il referendum contro il taglio dei seggi. A tempo di record, scrive Avvenire, il Caroccio sostituisce a sorpresa le firme ritirate dall'area di Forza Italia che fa capo a Carfagna e aiuta a raggiungere, superando anche le 64 necessarie, il quorum per chiedere agli elettori la conferma della riforma sul taglio dei parlamentari, una legge che pure la Lega aveva condiviso con 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Salvini dice sarà un voto per mandare a casa Conte. Intanto Di Maio si blinda di fronte alle voci che lo danno in procinto di lasciare il ruolo di capo politico e convoca a marzo gli stati generali del movimento. La viabilità e proseguiamo. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agritexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. In primo piano. Vediamo ancora tre quotidiani. Il Manifesto apre con una fotonotizia, Pompeo funebre, così Mike Pompeo e Steve Mnuchin comunicano le nuove sanzioni anti-Iran, la fotografia della conferenza stampa. E il sottotitolo, la spiegazione, l'uccisione di Soleimani a Trump non basta. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo annuncia nuove pesanti sanzioni all'Iran dopo l'attacco telefonato in Iraq. Colpiti anche interessi europei ed italiani. Sul Boeing caduto accusa, Teheran nasconde che è stato un suo missile, ma Kiev ora le scatole nere nel mirino obiettivi iraniani in Yemen. Come dicevamo, ovviamente le conferme sulla questione sono arrivate più tardi rispetto alla chiusura dei quotidiani. E poi, per quel che riguarda la Libia, il manifesto scrive: il futuro della Libia si decide a Mosca. L'Europa chiede il rispetto dell'embargo sulle armi. Buckingham Palace, una monarchia vetusta, il declino politico inglese, Aldo Garzia sul manifesto. La verità, guerra anche in Italia tra Conte e Di Maio. La decomposizione dei 5 Stelle, scrive La Verità. Il giornale più vicino al Premier, Il Fatto, spara in prima pagina la notizia che il ministro lascerà la guida del movimento. Imbarazzo, rabbia e smentite, ma è solo l'ultimo di una serie di conflitti culminati nella fallimentare operazione libica. E poi, sempre dalla Verità, il presidente di Confindustria va al tribunale fallimentare, boccia ristruttura i debiti della sua impresa con banche e fornitori. Questo è il titolo della Verità. Andiamo al secolo XIX, gallerie fuori legge, ecco la mappa in Liguria, la metà dei punti critici. La finanza sequestra nuovi documenti, il Consiglio dei Lavori Pubblici 2 mesi fa chiese il via ai cantieri. Ovviamente il secolo XIX punta su questo tema, lo vediamo tutte le settimane. Il Ministero delle Infrastrutture e la lista delle 200 emergenze, non ci sono strutture a rischio, ma servono interventi di adeguamento. E poi centropagina, Sanremo, effetto onda per il palco di Amadeus, il palcoscenico del Festival di Sanremo, quasi ultimato, una sequenza di forme curve simili a onde. Effettivamente un grande impatto, a quanto sembra, da questa fotografia. Riprendiamo con alcuni articoli che volevo segnalarvi a partire da Sole 24 Ore. Parlavamo dell'intervista a Carlo Cottarelli di Gianni Trovati. Per ripartire va ridotta di 2 punti la pressione del fisco, così titolava la prima pagina. Se entriamo un po' più nel dettaglio di questa intervista, leggiamo qualche passaggio. Allora, per provare a riprendere il cammino della crescita serve un piano ambizioso e strutturale, incluso un taglio drastico alla burocrazia, una riduzione della pressione fiscale di 2 punti di PIL nei prossimi 3 anni, ma non in deficit. Carlo Cottarelli, alla guida dell'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica, ha appena pubblicato un'analisi sulle cause della sostanziale stagnazione italiana degli ultimi 10 anni. Il tema dovrebbe farsi largo nell'agenda di governo, ma per ora anima il dibattito tra economisti, mentre continua a latitare nel confronto interno alla maggioranza in vista di una verifica che per il momento rimane in stand-by in attesa delle elezioni regionali. Ma l'anno inizia anche con un'Italia ancora una volta in fondo alle classifiche europee sulla crescita e con venti freddi che soffiano sulle prospettive economiche continentali. Tra concessioni autostradali, salvataggi bancari, prescrizione, legge elettorale, il dibattito nella maggioranza sembra trascurare i temi chiave della crescita e della produttività. Da dove si deve ripartire? Domanda Gianni Trovati. Risposta: prima di tutto bisogna mettersi d'accordo sulle regioni e sulle ragioni per le quali l'Italia ha avuto un tasso di crescita inadeguato negli ultimi 20 anni. Questo impone di porsi la domanda su quale sia il fattore che porta crescita in un'economia di mercato, e questo fattore indiscutibilmente è rappresentato dagli investimenti delle imprese, che sono troppo bassi e non per colpa loro. Che cosa li frena oggi? È difficile essere imprenditori in Italia, risponde Cottarelli. Da anni i sondaggi fra gli imprenditori indicano 3 deterrenti strutturali all'investimento: livello della tassazione, burocrazia, lentezza della giustizia, in particolare civile. Qualsiasi programma di rilancio deve ripartire da lì. E poi vengono argomentate appunto queste 3 difficoltà, questi 3 ostacoli per le imprese e gli imprenditori. Dal Corriere della Sera, cioè, segnalo anche sul Sole 24 Ore 2 temi molto interessanti che non riusciamo a leggere però subito. Uno riguarda l'Ungheria e l'emergenza demografica all'est, dove il premier Orban inventa la natalità di Stato, diciamo così, trattamenti di fecondazione in vitro a spese dello Stato, senza liste d'attesa, e nazionalizzazione delle cliniche specializzate in fertilità, che diventano una sorta di monopolio perché operanti in un settore settore strategico. L'Ungheria di Viktor Orban, che non vuole i migranti ma patisce un inesorabile calo demografico, inserisce un altro tassello nella strategia per aumentare la natalità, dopo i prestiti a fondo perduto alle coppie con almeno 3 figli. Il problema del resto è particolarmente acuto e sentito nell'Europa dell'Est, tanto che la presidenza di turno croata ha indicato nella lotta al calo della popolazione la sua priorità. E questo è uno dei temi appunto del Sole 24 Ore. L'altro riguarda gli ibridi sperimentali. L'Europa riapre il dossier OGM. Gli organismi geneticamente modificati che l'Europa da tempo ha deciso di non produrre ma che continua a importare, essendo largamente deficitaria soprattutto di soia, quasi esclusivamente OGM, usciti dalla porta rientrano dalla finestra, scrive Alessio Romeo, appunto Sole 24 Ore. Invece pagine di Repubblica, un rapido sguardo a appunto queste idee che ha il segretario del PD da mettere in campo dopo il voto in Emilia. Dice che intende, vecchio PD addio, ecco la mia svolta. Dice: non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed organizzato in ogni angolo del paese, ne scrive Massimo Giannini. Detta altrimenti e al di fuori del politichese, il Partito Democratico si scioglie, nasce un nuovo soggetto politico più vasto e plurale, con l'obiettivo di includere non solo nella raccolta del consenso, ma anche nella ridefinizione delle strutture e degli organigrammi, la società civile, i movimenti, le sardine, tutte le forze democratiche, progressiste, ambientaliste. Magari cambiano anche simbolo e nome, benché per adesso, a 2 settimane dalla madre di tutte le battaglie, l'argomento sia ancora comprensibilmente un tabù. Dunque, davvero la sinistra italiana si prepara all'ennesima svolta dopo la fine annunciata del comunismo con Berlinguer, che nel dicembre dell'81 dichiara esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre? Vedremo se davvero ci sarà svolta. Quello che ovviamente sottolinea Massimo Giannini è che insomma bisogna cedere sovranità se si vuole fare questa svolta. Bisogna cedere, scrive, poteri e incarichi ai soggetti esterni, agli esponenti della società civile che dice di voler accogliere. Ha la forza il PD e Zingaretti per farlo? Si domanda Giannini. Dalle pagine della Stampa vi ho già segnalato l'intervista all'incaricato russo per la Libia, Dengov. Vi segnalo che sulla Stampa, come del resto sul Secolo XIX, c'è un lungo approfondimento e una grande mappa delle gallerie fuori legge, oltre la metà tra Piemonte e Liguria. Il Consiglio dei Lavori Pubblici chiesto interventi ad Autostrade un mese prima del crollo nel tunnel sulla A6. Ne scrive Tommaso Fregatti. E poi c'è anche questa settimana un altro reportage di Niccolò Zancan sulla A6, continua per tappe così la sua indagine e si è imbattuto appunto sul famigerato crollo di cui abbiamo parlato, che non è un crollo ma una piccola nuvola di polvere, di vernice nella galleria di Quintiliano che si è staccata ieri. Comunque sia, il risultato è che i viaggi sono sempre più difficili e lunghi su questa autostrada. Si sa quando si parte ma non si sa quando si arriva. Dal Corriere della Sera ho così l'ultimo bagliore prima di chiudere, perché sappiamo tutto di Meghan e di Harry, che insomma sono in fuga da Buckingham Palace. Il Corriere della Sera ci fa sapere che insomma Meghan è tornata dal figlio in una lussuosissima magione a Vancouver che pare sia pagata da un misterioso oligarca russo, un dettaglio che aggiunge ulteriori perplessità sui piani futuri dei duchi del Sussex. Ne scrive appunto Luigi Ippolito da Londra, e dove c'è britannico c'è anche un oligarca russo nascosto. Ormai sappiamo che questo è un cliché. Comunque chiudiamo con questa notizia, con questa così curiosità. Sono le 7:57, ci ritroviamo con Si può fare, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Adesso c'è GR24 da Laura Bettini, buon ascolto.